105. Spaghetti coi piselli. È una minestra da famiglia, ma buona e gustosa, se preparata con attenzione. Del resto queste minestre asciutte vengono opportune per alternare con quell'eterno e spesso tiglioso e insipido lesso. Spaghetti grammi 500. Piselli sgranati grammi 500, carne secca grammi 70. Fate un battuto con la suddetta carne secca, una cipolla novellina, un aglio fresco e qualche costola di sedano e prezzemolo. Mettetelo al fuoco con olio e quando comincia a prendere colore, versate i piselli insieme con qualche gambo di aneto tritato, se lo avete. Conditeli con sale e pepe e cuoceteli. Gli spaghetti tritateli con le mani per ridurli corti meno di mezzo dito. Cuoceteli nell'acqua salata, scolateli bene, mescolateli coi piselli e serviteli con parmigiano a parte. Questa quantità potrà bastare per 6 o 7 persone. 106. Spaghetti con la balsamella. Tolti asciutti dall'acqua e conditi sul vassoio con parmigiano e burro, né più né meno come siete soliti a fare, versateci sopra, se gli spaghetti fossero grammi 300, una balsamella composta di latte molto buono decilitri numero 3, burro grammi 20, farina grammi 5, che corrispondono a una mezza cucchiaiata. È una minestra che potrà bastare a 4 persone.